Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Prendo il testimone da Edo nel senso di mixer, microfono e cuffie, e lo tengo per un'ora per poi cederlo a Marco Garavelli, che arriverà per proseguire la serata di Rock FM, che sarà conclusa da Claudia e infine da Maurizio Faolisi. Questa è Eclettica, tutti i giorni fra le 19 e le 20 in compagnia di Giulio Caperdoni sulle frequenze di Rock FM o anche in podcasting, quindi sul vostro lettore MP3, per avere tutte le informazioni su come fare per ottenere le trasmissioni di Eclettica in questo modo, o www.radiorockfm.com o myspace.com/eclettica. E tanto che ci sono, vi do anche l'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com da utilizzare nel caso vogliate anche iscrivervi alla lista nera. Marsiglia quel mattino aveva colori da mare del nord. Diamantis trangugiò in fretta un Nescafè nella sala comune deserta. Poi scese sul ponte fischiettando Besame Mucho, il motivo che più spesso gli tornava in mente, anche l'unico che sapesse fischiare. Tirò fuori una Camel da un pacchetto stropicciato, l'accese e si appoggiò al parapetto. A Diamantis quel tempo non spiaceva, non quel giorno lì perlomeno. Si era svegliato con un umore già impiastrato di grigio. Lasciò vagare lo sguardo sul mare verso il largo, come per allontanare il momento in cui, come tutti gli altri marinai dell'Aldebaran, avrebbe dovuto prendere una decisione. Decidere non era il suo forte. Da 25 anni ormai si lasciava portare dalla vita, da un cargo all'altro, da un porto all'altro. Questo era l'incipit dei Marinai Perduti, di Jean-Claude Izot. Let it be. make sure nobody else gets out. I want roving death squads around the perimeter 24/7. I want 10,000 tough guys, and I want 10,000 soft guys to make the tough guys look tougher. And here's how I want them arranged. Tough, tough, soft, tough, soft, soft, tough, tough, soft, soft, tough, soft. Sir, I'm afraid you've gone mad with power. Cripple walks amongst you all, you tired human beings. He's got all the things a cripple has, not two working arms and legs. And vital parts fall from his system and dissolve in Scottish rain. Vitally, he doesn't miss him, he's too fucked up to care. Is that you in front of me? Coming back for even more, exactly the same. Well, you must be a masochist. The love of modern laughter on his last leg, on his last leg. Crippled your heart 100 times and still can't work out why. You see, I've got this disease, I can't shake and I'm just rattling through the lies. Oh, well, this is how we do things now, yeah, this is how the modern stays scared. So I cut all the good stuff, yeah, I cut my food. È un album in uscita il 18 di marzo, quello che ha aperto Eclettica di quest'oggi. Album intitolato Mad and Faithful Telling, album degli statunitensi The Vodka, che uscirà per la Anti, che è anticipato da un singolo disponibile solo in forma digitale, Transliterator, e questo è il pezzo che avete sentito subito dopo l'Incipit. Per poi proseguire con i Frightened Rabbit, che ci siamo ascoltati con The Modern Leper, dopo esserci ascoltati la loro prova del 2007 per tanti mesi, stiamo anticipando la loro prova del 2008. E in questo 2008, per la precisione l'8 di febbraio, finalmente è uscito il primo disco ufficiale dei napoletani Newt. Chi ascolta Eclettica da anni ben li conosce, perché i Newt li stiamo ascoltando dalla fine 2004, quando uscirono con il primo demo, soprattutto con il pezzo Senza Scampo, che è contenuto anche all'interno di questo disco ufficiale. Però in una forma leggermente diversa, magari andremo a riascoltarcela, oggi ce ne ascoltiamo un'altra. Hanno registrato questo album nel maggio 2005 presso le Officine Meccaniche, qua a Milano, album che è intitolato Divento e che io avevo avuto la possibilità di ricevere nonostante non fosse stato pubblicato, e quindi fra la fine 2005 e inizio 2006 ci eravamo ascoltati più di una volta la canzone Esistere, che apre questo album, che ora, come già vi ho detto, esce finalmente in forma ufficiale. Sono contento che la band napoletana abbia questa possibilità. La traccia che ho scelto, delle 10 in totale, la numero 4, si intitola Delirio. Loro sono i Newt e alla chitarra a dare loro una mano c'è Piers Faccini. Thank you. aveva solo l'indirizzo. Rue de Pistol, nel vecchio quartiere. Erano anni che non tornava a Marsiglia. Ora non aveva più scelta. Era il 2 giugno, pioveva. Nonostante la pioggia, il tassista rifiutò di inoltrarsi nei vicoli. Lo fece scendere davanti a Monté des Aquiles. Un centinaio e più di scalini da salire e un dedalo di strade fino a Rue de Pistol. Il suolo era cosparso di sacchi di spazzatura sventrati e dalle strade saliva un odore acre, un misto di piscio, umidità e muffa. Unico grande cambiamento, il restauro del quartiere. Alcune case erano state demolite, le facciate di altre ridipinte in ocra e rosa, con persiane verdi e blu, all'italiana. Di Rue de Pistol, probabilmente una delle più strette, rimaneva solo una metà, il lato pari. L'altro era stato raso al suolo, così come le case di Rue Rodillat. Al loro posto un parcheggio. Fu la prima cosa che vide, sbucando all'angolo di Rue de Refuge. Qui sembrava che i costruttori avessero fatto una pausa. Le case erano luride, fatiscenti, divorate da una vegetazione merdosa. Questo era l'incipit di Casino Totale, di Jean-Claude Izot. Era The Antlers con The Universe Is Going to Catch You, ed ora, per l'ennesima volta, Radiohead. Radiohead che già ci siamo ascoltati in diversi passaggi, con quasi tutti i brani estratti da In Rainbows, Radiohead di cui abbiamo parlato tanto, visto anche la modalità di vendita che hanno deciso di adottare per questa loro nuova prova. Radiohead di cui già ci siamo ascoltati anche delle cover da In Rainbows stesso, come per esempio quella di Bell. Ora esce un album a nome di un DJ, DJ Ampliv, DJ Ampliv vs Radiohead, che rifà l'intero In Rainbows, rimescola l'intero In Rainbows, intitolando Rain Days Remixes, dove quasi tutti i brani sono rifatti e reintitolati con la Z finale, come per esempio Videotapes. Right here on a reel in a theater, a real occurrence. You're in a box with the top popped open, like the soldiers in a Trojan. Unexpected, one direction, can't go both ways, that's what the Pope say. Every note played in your soundtrack is based around fact, how you get down and act. The end of the cinema, into the darkness, the usher escorts you to your fortune, morphing into the final solution. Might be gruesome, dependent on your contribution. Your vision gets clear and translucent, witnessing your own video revolution. With my issues and whatever script I choose, sound is magnified, amplified, forcing the subject, discovering a new adjustment, something for my understanding, it might be expanded depending on the programming. I spot my ways of abandon, witnessing my own parade on the planet.